Episodio 1. 12. Ascolta la notizia radiofonica. E buongiorno a tutti da Gabriella Chieregatti. Sveglia con blackout per tanti romani questa mattina. Il provvedimento che ha investito tutto il territorio nazionale è stato adottato dal gestore della rete di trasmissione dell'energia elettrica, che nei giorni scorsi aveva lanciato l'allarme sui consumi eccessivi di elettricità dovuti all'uso di condizionatori. Molti i disagi nonostante il piano messo a punto dalla prefettura. Ce ne parla Antonio Iovane. Centocelle, Portonaccio, Talenti, Bufalotta, Parioli, Forte, Bravetta fino a Castel di Decima. Sono stati molti i quartieri coinvolti nell'interruzione di energia elettrica deciso dal gestore nazionale per fare fronte al consumo eccessivo di questi giorni dovuto al caldo. Tra i disagi, cittadini chiusi in ascensore, semafori in tilt, problemi all'ospedale Villa San Pietro. La corrente è stata interrotta a macchia di leopardo a partire dalle 9 di questa mattina e mancherà fino alle 18. Sulla carta il funzionamento di ospedali e altre strutture cosiddette sensibili dovrebbe essere garantito, ma per 20 minuti all'ospedale Villa San Pietro solo il corretto funzionamento dei gruppi elettrogeni d'emergenza ha scongiurato questa mattina problemi più gravi. Nel quartiere Montesacro Talenti molte persone sono rimaste chiuse in ascensore. Altre zone coinvolte nei disagi sono stati il quartiere Collatino, la città universitaria, il Nuovo Salario, Tormarancia e Forte Bravetta. 400 pompieri sono comunque al lavoro per scongiurare altri problemi. E abbiamo sentito i disagi, allertate le forze di polizia e i vigili del fuoco, e nonostante il poco tempo a disposizione, secondo il prefetto Emilio Del Mese, il piano di sicurezza avrebbe funzionato bene. Positiva anche la reazione dei romani all'emergenza. Sentiamolo ai nostri microfoni. I romani, come al solito, si sono dimostrati di grande intelligenza e quindi, se possibile, hanno utilizzato a scendere gli ascensori, e quindi abbiamo avuto molto meno richieste di aiuto di quante ce ne immaginavamo. Ma d'altra parte Roma è abituata alle emergenze ed è abituata anche a rispondere con intelligenza a queste, diciamo pure, micro emergenze. Prima di tutto voglio dire che ha funzionato il sistema ACEA, per cui tutti gli ospedali e tutti quelli che vengono considerati obiettivi sensibili da un punto di vista anche sociale, quindi soprattutto cliniche, ospedali, uffici importanti, non sono stati toccati dal blackout. Diciamo che questo sistema di preallarme che noi avevamo attivato ha funzionato.